conto di lasciare un'AVI che è molto rivalutata per quanto riguarda la sua funzione di punto di riferimento per tutti gli stakeholder, le autorità di vigilanza del sistema, con una cultura interna molto sviluppata tecnicamente di altissimo livello, con una buona capacità di interpretare le esigenze della nostra società. Il sistema bancario italiano ha rappresentato nel momento della crisi e rappresenta tuttora il baluardo più solido per il mantenimento della stabilità finanziaria, economica e sociale del nostro Paese.